Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono sempre qui a San Pietro perché desidero farvi visitare questa bellissima chiesa, la chiesa più importante della cristianità. La chiesa ha una caratteristica, una gigantesca facciata, l'abbiamo guardata tante volte, soprattutto in occasione dei conclavi, quando i papi si affacciano, quindi la curiosità di vedere questo balcone è notevole. È una facciata non particolarmente attraente, diciamo così, dal punto di vista artistico, perché è frutto di un compromesso. A un certo punto la fabbrica di San Pietro venne affidata a uno svizzero che si chiamava Carlo Maderno, il quale viene incaricato di completare la basilica e quindi di trasformare il progetto a pianta centrale che Bramante aveva pensato di nuovo in una chiesa longitudinale, cioè allungando le navate in modo da coprire tutta la superficie dell'antica basilica di San Pietro. Viene costruita questa grande facciata che è una specie di quinta di teatro, e questa facciata prevedeva che si innalzassero ai lati due campanili che noi oggi non vediamo. Cos'è successo? È successo che gli architetti allora non potevano fare dei buoni calcoli statici e quindi non calcolarono che il peso eccessivo di queste strutture non avrebbe retto, e infatti i campanili vennero costruiti e smontati più volte. Addirittura intervenne anche Gian Lorenzo Bernini, che costruì uno dei due campanili e poi si accorse che non c'era la possibilità di farlo stare in piedi. Naturalmente venne attaccato dai suoi nemici, ogni architetto ha un buon numero di arti colleghi nemici. Si rifarà poi Gian Lorenzo Bernini progettando invece quello che doveva essere l'atrio per i pellegrini, cioè il luogo dove il pellegrino si può riposare, riparare dalla pioggia e soprattutto si possono fare le processioni al coperto. Ecco la funzione antica del grande colonnato che noi oggi in realtà varchiamo con i metal detector, perché i tempi, ahimè, sono un po' cambiati.